respirare un po' di aria diversa. Quella che abitava a casa mi sembrava torbida. In giro per il centro c'era ancora un bordello. Io che salutavo una persona mai vista. Ero uscita solamente per vederti a caso. Evito un intralcio che mi passa a tiro, che non sia tu. Sembra che non mi rimanga più niente da fare che essere sincera. Vero, il film è un po' lento, mi sento distratta. È il velo di Maya. Brindiamo alla nostra relazione, non inizia e non avrà mai fine. Evitiamo solo un bel casino, tu sai come finirà. Ogni giorno io mi guardo allo specchio, dimentico ogni cosa che hai detto. Una maglia che non metto più, le tue mani velluto blu. Mani velluto blu, velluto blu, velluto blu. Mani velluto blu, velluto blu, velluto blu. Incontro vecchio amico dopo almeno 10 anni. Come siamo diversi, cosa siamo da grandi. Per cena un pensiero stupendo, me l'ha chiesto per noia, se n'è andato strisciando. Sento piovere forte, è la vita che scorre, scorre come un ruscello, io mi devo sbrigare. È l'inizio dei 30 anni che mi dà la testa, e quindi chi se ne frega di sembrare perfetta. Ah, brindiamo alla nostra relazione, non inizia e non avrà mai fine. Evitiamo solo un bel casino, come finirà. Ogni giorno io mi guardo allo specchio, dimentico ogni cosa che hai detto. Una maglia che non metto più, le tue mani velluto blu. Mani velluto blu, velluto blu. Mani velluto blu, velluto blu. Blue.